presentazione del suo libro, del suo, sì, della sua, della biografia sulla Marchesa Gonzaga, che qui a Bolzano non è conosciuta, neanche io ne sapevo, e mi è capitato l'estate scorsa una mail di una signora che non conoscevo, che la signora Pacchiera qui accanto, che mi chiedeva lumi su alcuni personaggi dell'Alto Adige nei primi decenni del secolo scorso, del Novecento, soprattutto sul alto magistrato austro-ungarico Karl Grabmaier, che è un altro tesino su tirolese, meranese di nascita, bolzanino di adozione, e poi trasferitosi a Vienna perché magistrato presso la Suprema Corte austriaca, e che dopo il crollo dell'impero avrebbe potuto o dovuto rientrare nella sua terra d'origine per assumere un ruolo importante all'interno dello Stato italiano. Si parlava magari di una sua nomina a senatore a vita, a senatore che nel Senato allora era di nomina regia, e per, come dire, per aprire, come un gesto di apertura dello Stato o del Regno d'Italia nei confronti di questi nuovi sudditi. E da questo primo scambio epistolare è nato un fitto scambio, e mi sono sempre più addentrato nella persona o nella figura sulla quale la signora Pacchiera stava appunto svolgendo delle indagini e si stava prestando a scrivere una corposa biografia appunto sulla vita e sulle gesta, forse si possono anche chiamare così, della Marchesa Gemma Guerrieri Gonzaga, che è il nome di sta sposata, nata Marchesa Gresti di San Leonardo, che è una piccola località e anche nel Trentino, ai limiti della loro impero austro-ungarico, ai confini con l'Italia. E io di questa signora non conoscevo nulla, non sapevo nulla, e mi sono sempre più addentrato nella sua vita, che è una vita, diciamo, all'inizio, ma ne parlerà più dettagliatamente l'autrice, una vita normale di una nobildonna, ma poi con la Grande Guerra prende una svolta veramente incredibile, che non anticiperò, lascerò a te a spiegare, e che poi dopo la Grande Guerra per alcuni anni cerca, fino all'avvento del fascismo, perché poi non era più possibile, cerca di svolgere un ruolo di mediazione fra, diciamo, sì, la nobiltà, le alte sfere romane e la nuova provincia dell'Alto Adige. E in questo senso è molto, molto interessante i suoi contatti, naturalmente, con Carl von Grabmaier, questo giudice, e poi sarà anche molto interessante, e non a caso che abbiamo scelto questo lunedì, le sue lettere sugli avvenimenti del 24 aprile del 1921, quando c'è stata questa incursione fascista qua a Bolzano, fascisti venuti probabilmente in maggioranza dal Veneto, dalla Lombardia, dal Bresciano e dal Veronese, e che si è conclusa questa incursione con un morto, il maestro Innerhofer, e con parecchi decine di feriti. E la visione che ne dà lei è molto interessante, e dà un retroscena, cioè soprattutto sui retroscena, non sugli avvenimenti che lei non... chiaramente non lei si trovava a Bolzano, ma non ha seguito gli avvenimenti, ma i retroscena che hanno portato a questa incursione o che hanno portato a questa catastrofe, lei li descrive in un modo molto avvincente e molto molto convincente anche. Però prima di dare la parola alla scrittrice, vorrei presentarla, è la signora Luisa Paquera, anche lei una, come dire, una conterranea della Marchesa, Certo. originaria di Avio, e San Leonardo è nel comune di Sì, Avio, sì, sì, sì. anche questa originaria di Avio, ha passato dopo gli studi superiori e gli studi universitari qui a Padova, ha passato parecchi anni in Sì, Germania, quasi 5. 5 anni in Germania, e lì sposata, lì si è avvicinato alla scrittura, lì si è iniziata a scrivere e ha pubblicato parecchi racconti, parecchi romanzi. Uno mi ha colpito, senza pur averlo letto, mi ha colpito per il titolo, che si chiama Milch Schokolade, nel senso Scommetto che è Milch polviscioladare. Schokolade, no? È il primo romanzo, suppongo, Sì, è il stato il primo romanzo. primo romanzo. Poi è tornata diciamo, a casa, se possiamo così dirlo, e risiede attualmente, vive attualmente di nuovo ad Avio, e si occupa, diciamo, di storia, di storiografia, di letteratura, di roma scrive romanzi, scrive racconti. Inoltre è anche curatrice di riviste, come la rivista Radici. Radici, che è una rivista, diciamo, slow food, per così dire, un po' su questa, un po' del vivere no, bene, del mangiare e soprattutto del bere bene, o bere con cultura, soprattutto di vino e di altre primizie. Il libro, se posso dirlo, è scritto in un modo molto, cioè, si legge quasi d'un fiato, almeno a me è sembrato, perché è molto avvincente, descrive questa vita della Marchesa, prima della guerra, durante la guerra e poi dopo la guerra, fino alla sua prematura morte nel 1926. 28. 28, scusami, grazie. Ed è una, sì, un spaccato del tempo, di un tempo che è anche di una società che ormai non esiste più, e anche di uno spaccato di un territorio, diciamo, questo territorio fra in bilico fra Austria e Italia, questa tenuta, questi poteri presso Gresti di San Leonardo, che lei ritiene sempre la sua, diciamo, la Patria, sì. sua heimat, la sua patria, per così Sì. dire, dove è sempre tornata, anche se viveva a Roma, spesso molti passavano molto tempo a Roma, a Padova A o a Torino, Roma, Torino, Torino, Firenze. Firenze, Però è vero, tornava sempre, ogni sempre, anno era quando sempre a San poteva, Leonardo. tornava lì, dove era anche cresciuta, dove è nata e cresciuta e ha passato i primi anni più importanti della sua vita. Io vorrei passare la parola a te per un po' una descrizione, come hai già fatto molte altre volte, così avvincente, di questa vita della Marchesa, Gemma. Gemma Gresti di San Leonardo. Quindi, Provo io. sì. Sì, il rapporto che io ho avuto con Gemma Guerrieri Gonzaga risale indietro nel tempo proprio. Adesso io non vorrei stancarvi con premesse lunghe, però credo che sia interessante sapere che la mia professione adesso è la scrittura, scrivo insomma, ecco, però scrivo da 10 anni, ma sogno di scrivere da 30, 40 anni, non so, ormai gli anni passano, sono tanti, no? E questo è stato uno degli argomenti, la persona di Gemma Guerrieri Gonzaga doveva essere uno degli argomenti su cui io avrei dovuto cominciare a scrivere, perché da ragazza, insomma, sapevo che era stato trovato un archivio molto grosso di 5.000 lettere che parlavano di questa donna che aveva fatto tanto per i prigionieri austriaci di lingua italiana sul fronte russo, per cui c'era questo interesse. Io volevo scrivere qualcosa su Gemma Guerrieri Gonzaga. Questo parlo molti anni fa ancora, no? Però era un argomento molto difficile, io non ero preparata per una cosa del genere, per cui ho sempre tergiversato. Una volta non avevo tempo perché insegnavo, la volta dopo mi ci mettevo e mi è nato il figlio, ecco, diciamola così, quasi casualmente, no? Ecco, ho sempre avuto un motivo, una scusa per non affrontare un tema così difficile per me che non vengo dal mondo della storia, insomma. Poi sono andata a vivere in Germania con la mia famiglia, lì mi sono trovata con tanto tempo a disposizione, ho cominciato a scrivere. Ho cominciato a scrivere dei romanzi, Fermi Cioccolade è uno di quelli, che credo sia anche qua in biblioteca, penso. E poi sono tornata dalla Germania e pensavo che qualcuno avesse scritto su Gemma Guerrieri Gonzaga, perché veramente è un personaggio eccezionale. Pensavo che fossero state scritte delle tesi, ero convintissima che delle tesi di laurea, e invece niente. Non c'era niente, era come quando io sognavo di scrivere qualcosa su Gemma Guerrieri Gonzaga, l'ho ritrovata dopo tanti anni ancora uguale, e questo mi ha incuriosita, mi sono chiesta come mai scriviamo un po' su tutto, come mai non si scrive su un personaggio di questo genere, di questa portata, no? Ho capito dopo, quando ho cominciato a studiare l'archivio, ho capito perché nessuno ci aveva messo il naso, quantomeno non il naso, perché l'archivio era stato studiato. Anche microfilmato dal Museo Storico in Trento, dalla Fondazione, adesso allora Museo del Risorgimento, a quel tempo, no? Dunque un interesse verso l'archivio c'era e c'è stato, però lavorare su un archivio così dispersivo era veramente terribile, e penso che anche gli studenti che si sono avvicinati per farne una tesi o qualcosa, poi si sono tirati indietro, come avevo fatto io per tanti anni. L'anno scorso, come 2 anni fa ormai, nel 2007, io non ce l'ho fatta a tirarmi indietro, perché avevo appena finito di scrivere un paio di libri legati assieme. Sono quei momenti, chi conosce il mondo della scrittura sa che quando il momento più fragile è quando si termina un libro, lì si è pronti, si è come delle spugne, si è pronti a fare qualsiasi cosa, a scrivere, perché c'è bisogno proprio di riprendere. E lì ho cominciato a lavorare sull'archivio e mi sono fatta prendere dall'entusiasmo di questo personaggio veramente eccezionale, e non ho più smesso finché non è uscito il libro. Il libro ha una certa mole, però diciamo che il racconto della sua vita è circa la metà del libro, il resto sono documenti che io ho voluto riportare e trascrivere, un pochino anche per rendere testimonianza di quello che ha fatto, cioè non ho inventato quello che scrivo, insomma, è veramente quello che ha fatto, è veramente così. Perché Gem veramente si è mossa in modo incredibile. Voglio raccontarvi un po', spero di non entrare troppo nel particolare, perché poi io mi entusiasmo e vi racconto tutto il libro. Spero di non fare questo errore, casomai dimmelo che mi fermo prima, no? Gemma nasce a San Leonardo nel 1873. Lei è figlia di un nobile locale, che senza un titolo preciso, però comunque della nobiltà contadina locale, che era fuggito, aveva attraversato il confine per seguire le guerre risorgimentali italiane, erano di spirito quindi italiano, anche se avevano dei rapporti ben stretti e precisi con la loro terra, che era la tenuta di San Leonardo. La tenuta di San Leonardo, come diceva Christopher, proprio saranno 200-300 metri forse di distante dal confine adesso con il Veneto, allora con il Regno d'Italia, no? E lì questo ragazzo, che era il padre di Gemma, che forse era anche un po' discolo, così aveva combinato qualcosa, è fuggito in Italia, ha partecipato alle guerre, poi lui conosceva le lingue, per cui è entrato in diplomazia e ha cominciato a girare il mondo con la famiglia. Ha conosciuto una signora che era di origine a metà russa, e questo è importante perché lo troviamo dopo il motivo, e l'ha sposata. La signora era già era vedova, aveva già 2 figli, nascono altri 4 figli, sono tutti maschi, tranne Jenna che è l'ultima, la sesta figlia, sesta nel senso 4 più i 2 precedenti, il precedente matrimonio, no? Ecco, la famiglia, proprio perché nobili, quindi con appartamenti a Roma, a Torino, insomma avevano rapporti di questo genere, girano un po' l'Italia, l'Europa, così, fanno una vita come legata al ceto sociale a cui appartenevano, e così anche Gemma segue la stessa strada, insomma. Musica, cavalli, la danza, la pittura, cose di questo genere. Studia anche in collegi, però insomma sostanzialmente segue la famiglia in questo iter. Pisa, Firenze, Torino sarà una città importante per la sua vita, e Roma in modo particolare. A 20 anni conosce il marchese Tullio Guerrieri Gonzaga e lo sposa, si innamorano, c'è un diario bellissimo, io ne riporto dei tratti, un diario bellissimo del marchese che racconta come si sono conosciuti, come in pochi mesi, in 3-4 mesi si sposano, insomma c'è anche, è un matrimonio combinato, come succedeva spesso o forse sempre in quei casi là, però c'è anche dell'amore tra i due. Si sposano, dopo un paio di anni nasce un figlio e sarà l'unico figlio, anche perché il marchese Tullio Guerrieri Gonzaga muore giovane, muore per un ascesso a un dente che gli viene estratto in qualche modo e lascia la giovane vedova con un bambino di 4-5 anni. Siamo nel 1902, questo è già nel 1902, tutto sembra che vada al meglio perché insomma la tecnica, le scienze, sembra che tutto funzioni al meglio, invece il peggio sta proprio per arrivare. E lei torna a vivere, anche se vedova, non vive a San Leonardo, cioè viene durante il periodo della vendemmia, ogni anno torna lei lì, no? Però vive in gran parte a Roma e in questo periodo proprio della prima vedovanza, così, no? Riesce a instaurare rapporti molto forti con quello che è il mondo politico e governativo, diciamo così, romano. Questo che lei non frequentava i salotti bene, perché era una donna molto spiccia, anche nelle sue lettere era così proprio, no? Però instaura rapporti frequenti ai cugini Guerrieri Gonzaga, anche De Gresti di Roma, e lì arriva a conoscere tutte quelle personalità che poi, fra qualche anno, nel periodo della guerra, proprio le torneranno utili, perché se il lavoro che ha fatto lei, l'ha fatto proprio perché in quel periodo è riuscita a intessere questi legami, questa rete di conoscenze così forti, quindi con quello che era l'intelligenza politica e letteraria, anche culturale del tempo. Bene, arriviamo al 14, nel 1914 scoppia la guerra. Questa è una cosa interessante, perché io quando presento il libro, anche mi è successo anche in Trentino qualche tempo fa, no? Io dico, quando scoppia la guerra, non è che è scoppiata la guerra, faccio e tutti nel 1915, perché anche nel Trentino, dove abbiamo vissuto la guerra nel 14, eppure tutti dicono nel 1915. Posso capire nelle presentazioni che faccio nel Veronese, nel Veneto, così che ci sia, ma mi domando, me lo domando proprio dopo aver scritto anche questo libro, perché la scuola non riesce a far passare questo messaggio, che la guerra non è cominciata nel 1915, no? Ma per noi, tutti sanno che nel 14 la guerra è cominciata, l'Austria, eccetera. Ma per noi la guerra è cominciata nel 1914 e quindi per San Leonardo è cominciata nel 14. La gente viene, i giovani, i primi scaglioni vengono richiamati e mandati in Galizia. Dal Trentino sappiamo che partono presso poco 60.000 persone, così almeno io sono i dati che ho raccolto, presso poco. Tra queste persone anche gente tra i contadini di Avio e di San Leonardo, eccetera. E Gemma torna nell'estate del 14, torna per la vendemmia ad Avio, a San Leonardo, e incontra una signora anziana e probabilmente anche la moglie. Io nel racconto metto anche la moglie, perché sono versioni un po' non tutte uguali, no? Incontra la mamma di sicuro, comunque la signora Rosa Franchini, che è di Avio, originaria di Vossinistro, la signora è di Vossinistro, per cui facciamo riferimenti i suoi, insomma, sì, a me. Mi piace dire che lei e questa signora è in crisi, sta piangendo quando si incontrano, perché ha 4 figli maschi, e dei 4 figli maschi 2 sono in procinto per partire per la guerra, 2 sono già in guerra, 1 è dato per disperso, quindi si pensa sia morto probabilmente, e l'altro è appena arrivata una cartolina della Croce Rossa russa che dice che è prigioniero, ma non si capisce dov'è e quantomeno non risponde, nessuno risponde, nessun ente. Questa signora, questa famiglia si è rivolta un po' a tutti gli enti locali, il comune, la provincia, Trento, Ma nessuno riesce a dare una risposta e chiede aiuto alla marchesa, dice: lei me lo cerchi lei questo figlio, mi cerchi questo figlio perché nessuno sa dirmi niente. Chiaramente cercare un prigioniero di cui non si sa niente in Russia è una cosa, nella Russia dello zar è una cosa penso impensabile. Però la signora dice: insomma, lei, sua nonna era russa, forse conosce qualcuno, la via, no? Gemma Guerrieri Gonzaga non riesce a dire di no, anche perché all'inizio le torna in mente l'idea che l'ha letto qualcosa su un elenco e quindi promette di controllare, no? Sembra che ci sia un elenco di prigionieri a Roma, lei pensa a quello e va a Roma, controlla, ma non c'è nell'elenco e tantomeno non c'è il nome di questo giovane. Ecco, allora interpella i parenti che ha in Russia, lì ha un colpo di fortuna incredibile perché questi parenti si mettono in contatto con altri amici, creano una specie di rete e trovano questo prigioniero di San Leonardo in un campo di concentramento, sì, un campo di raccolta di prigionieri nella Russia europea, lo trovano assieme addirittura a quel fratello che era dato per disperso, quindi è proprio un colpo incredibile, insomma una cosa, un'immagine, chiaramente la notizia arriva, va su la stampa non solo nazionale ma anche internazionale, anche stampa tedesca di Germania pubblica questa notizia, e la marchesa diventa in un attimo la stella del momento, la mamma vuole, io non credo che lei fosse molto contenta di questa idea della mamma, la chiamavano anche i prigionieri, la chiamavano la mamma, lei credo che, ho trovato 5 date diverse di nascita, no? Lei non citava mai la sua, quella vera che era la più indietro nel tempo, no? Quindi non credo che fosse proprio contenta che tutti dicessero la mamma, la nostra mamma, no? Penso che si vedesse in un altro modo, però rimane il fatto che diventa famoso in quel momento lì, i genitori cominciano a scrivere da tutte le parti della regione e a chiedere aiuto a questa signora, no? E lei avvia un meccanismo che funziona veramente. In pratica lei torna a Torino, apre uno studio a spese sue, si prende una segretaria, chiede la collaborazione di due, un polacco e un russo, per poter decifrare il cirillico, eccetera, e comincia a scrivere ai giornali, rivolgendosi alle famiglie, dicendo: mandatemi le ultime cartoline dei vostri figli o dei vostri mariti, e io cercherò di rintracciarli in Russia. In Russia lei fa leva, crea una rete di questo genere, no? Fa leva partendo dai primi due franchini, quelli che ha trovato, i due contadini di Avio, e chiede di compilare dei moduli che con su tutti quanti i prigionieri di lingua italiana presenti in quel momento nel campo di concentramento e anche quelli che se ne sono andati, si sono stati spostati in altri campi, no? Ad ognuno poi lei scrive, ad ognuno riceve gli indirizzi, ad ognuno scrive dicendo di mandare la comunicazione di tutti i prigionieri che sono presenti nel campo, e pian pianino crea una rete incredibile, arriva ad avere contatti con una cinquantina, lei dice a volte anche 150, non so se sbaglia con un uno davanti oppure se è giusto 150 o 50, prendiamolo anche in senso restrittivo, una cinquantina di campi di concentramento dislocati dalla Siberia al sud, di tutto quanto quello che era l'impero russo, e con un numero incredibile di prigionieri, lei dice, credo esagerasse un pochino, ma dice che ha contatti con 20.000 prigionieri, no? E sono tantissimi, si parla di 25.000 prigionieri come cifra così approssimativa, tra prigionieri trentini e prigionieri del litorale, come lo chiamano, gli adriatici, come venivano chiamati. Io ci ho messo un bel po' per capire chi erano gli adriatici, perché si legge, lui è un adriatico, non capivo bene il significato. Ecco, e pian pianino crea questa rete, arrivano le comunicazioni, lei le pubblica sui giornali locali e attraverso queste pubblicazioni, ciao, attraverso queste pubblicazioni le famiglie possono leggere sul giornale che il figlio è vivo e si trova in... Insomma, si crea questa rete per cui lei prende dei contatti incredibili. Diventa anche molto famoso in fretta, perché pensate cosa vuol dire il tam tam delle persone che quando lei veniva in visita a San Leonardo c'era la fila a casa sua di gente che veniva a chiedere a, lei, a portare biglietti con il nome e il cognome del disperso, l'indirizzo. E se questo era, era complicato fino alla primavera del 1915, con il glorioso maggio del, del 1915 diventa ancora più complicato, perché ci sono gli sfollati, le famiglie, prima dall'Austria, prima l'Austria sfolla le famiglie di tanti paesi, Rovereto è stata svuotata per dirne una, no? Ecco, e li manda in Moravia e nel, in giro per il nord Europa, diciamo, poi arrivano gli italiani e fanno la stessa cosa, prendono le famiglie rimaste e le mandano in centro Italia. Chiaramente questi prigionieri non hanno più un riferimento, non sanno più dove, non sanno dove sono queste famiglie, non possono più scrivere, scrivono a lei. Lei non sa come comunicare queste cose, vengono chiusi i giornali qua trentini per cui non c'è più la possibilità di comunicare, diventa tutto più complicato, ma lei si organizza a ganci e riesce a mantenere questi rapporti. Col maggio del 15 comunque c'è la svolta, lei comincia a capire, a dire vabbè, sono di lingua italiana, riportiamoli a casa. Se sono italiani, oltretutto l'Italia è alleata adesso con la Russia, con lo zar, siamo fratelli, riportiamoli a casa. La Russia era contentissima, più volte ha offerto al governo italiano, ovvero al governo italiano di prendersi questi prigionieri. Prendeteveli e portateveli via, no? Solo che l'Italia non ne voleva sentire. Roma, insomma, diceva erano austriaci, insomma, e poi cosa facciamo, li portiamo qua e magari hanno ancora lo spirito austriaco per cui ci tradiscono, c'era tutta questa roba qua che è incredibile, no? Ma invece Gemma sposa questa idea, sposa l'idea che tutti gli italiani devono tornare, dice a un certo punto, anche si arrabbia, anche perché è una donna di carattere, no? Dice devono tornare tutti, non ha importanza se sono di spirito austriaco o meno, anzi dobbiamo, l'Italia deve essere magnanima, deve essere generosa, specialmente con questi che non si sentono italiani, perché solo così poi, a guerra finita, potremo pensare di costruire qualcosa nelle loro terre, nelle loro valli, altrimenti se noi li consideriamo nemici adesso, saranno nemici loro dopo di noi, no? In questo era veramente avanti, secondo me, come pensiero, no? Perché grandi politici le scrivevano, e io ho letto le lettere, e dicevano, ma sì, ma guardi Marchesa, lei ha ragione, scelga 20 prigionieri, le mandiamo l'elenco, lei scelga 20 che quelli li portiamo in Italia, no? Un altro diceva, non so, facciamo un 5% dei suoi elenchi, portiamo, e lei diceva no, tutti o niente. Loro dicevano, ma i nobili portiamo in Italia, quelli che hanno combattuto e che mostrano uno spirito italiano, e lei diceva no, perché poi la terra la coltivano i contadini sono tutti quanti per l'Austria. Noi dobbiamo portarli dalla nostra parte, per cui l'unico modo è mostrarci generosi, mostrarci, e poi vedremo, dice, perché poi non era mica così ingenua, e poi vedremo in Italia, casomai quando sono qua, se combinano guai, vedremo cosa fare. No? Aveva questa impostazione, ha talmente spinto, talmente fatto, credo che si fosse creata in giro una nomea incredibile, io penso che quando arrivava in qualche gabinetto ministeriale, penso che chiudevano le porte, scappavano, perché doveva essere una donna veramente col carattere forte, ma anche un po' pesantino, e se non fosse stato così non sarebbe riuscita a far niente, ecco, in quel mondo lì in modo particolare, no? Lei ha cominciato a spingere perché fosse formata una commissione, una missione, come si diceva, militare, per andare in Russia a prendere questi trentini, no? Questi trentini o dalmati o friulani, e riportarli in Italia, anzi portarli in Italia, perché si portavano, non si riportavano, no? E il problema lì non era facile, perché tanti prigionieri la via dicevano no, io non... Bisognava firmare chiaramente che ci si sentiva italiani, bisognava richiedere la cittadinanza italiana per poter tornare in Italia, no? E tanti non se la sentivano di firmare, perché avevano anche una grande ragione, secondo me, perché le famiglie erano ancora in Italia, i possedimenti erano ancora in Trentino o in Friuli, mettevano a rischio quello che era la famiglia che rimaneva qua, insomma, potevano esserci ripercussioni. Poi c'era anche, si diceva che se tornavano in Italia venivano mandati subito al fronte a combattere contro gli austriaci, come noi siamo stati austriaci fino adesso dobbiamo andare a combattere contro era complicato, pochi hanno firmato e senz'altro pochissimi di quelli che poi sono rientrati sono andati a combattere con l'Italia. E i primi contingenti che sono rientrati, grazie anche proprio all'intervento della Marchesa, saranno circa 4.000 persone, 4.000 soldati, si parla di 200, tanti là dicevano bandiera italiana, canti nazionali, avevano creato l'angolo di Cadorna all'interno delle camerate, così poi in effetti quando sono tornati in Italia, perché sotto sotto c'era il bisogno di rientrare, di allontanarsi da una situazione di questo genere, no? Lei sapeva questo, sapeva che non era tutto quanto come poteva sembrare, no? E nonostante questo è andata avanti su questa strada, ha aiutato il percorso di rientro di questi primi 4.000 soldati che hanno fatto un giro dell'Europa, passando a nord della Scandinavia, approdando poi in Gran Bretagna, in Scozia, insomma un giro incredibile, e li ha seguiti fino a quando sono arrivati a Torino. Lei era presente a Torino, i primi due contingenti sono arrivati a Torino, il terzo a Milano, ed era presente in tutti e tre casi lei lì. E come succede spesso in Italia, fiori, abbracci, spumante, feste, hanno trovato questi prigionieri al rientro, hanno trovato la città di Torino imbandita, era tutto meraviglioso, corone di fiori ovunque, anche se la guerra era in atto e c'erano problemi ben grossi, no? E dopo qualche giorno, due, si sono scontrati invece poi con la realtà, lavoro non ce n'era per loro, perché non ci si fidava di quello che potevano fare nelle fabbriche. Le fabbriche erano tutte quante militarizzate, e per cui c'era la paura che questi austriaci potessero creare dei problemi. E anche lì è intervenuta con forza la Marchesa. Per esempio, si ricorda con piacere quello che ha scritto l'avvocato Agnelli, lei lo conosceva personalmente, aveva chiesto di assumere alcuni prigionieri trentini, erano stati assunti, poi lui in una lettera ha scritto che se non ci fossero stati loro la guerra non si sarebbe potuta fare, andare avanti, insomma, non c'è mai stato un atto di sabotaggio da parte di queste persone. Vabbè, 4.000 sono rientrati nel 1916, ma tanti altri, erano più di 20.000 quelli che sono rimasti là, no? E nel frattempo è scoppiata la rivoluzione, quindi pensate cosa poteva essere la Russia di quel tempo, pensare di spostare 20.000 soldati sparsi in grossi campi di concentramento, in giro per un territorio in fiamme, dove i treni non funzionavano, erano sempre pieni, funzionavano a modo loro, insomma era difficile. E lei ha seguito l'operato, adesso non ve lo descrivo perché è troppo lungo, ha seguito l'operato della missione militare mandata in Russia per riportare questa gente a casa, l'ha seguita passo passo. Pensate che hanno fatto un viaggio di, mi sembra di ricordare, 10.000 chilometri per attraversare la Siberia e arrivare a Vladivostok. Lì sono stati portati questi ex prigionieri, diciamo, perché con la rivoluzione poi i campi di prigionieri sono stati aperti, quindi erano considerati ex prigionieri. E sono stati portati in Manciuria, in Cina. Lì poi alcuni sono stati fatti tornare di ritorno per combattere contro i comunisti, contro l'armata rossa, alcuni si sono arruolati invece con i rossi, per cui si sono trovati anche a combattere l'uno contro l'altro, è stata una cosa terribile per queste migliaia di persone. Tanti sono tornati nel 25-26, dopo che la guerra era finita da tanti anni, e tanti erano, io ho letto le lettere anche di questi soldati che scrivevano alla Marchesa e si dicevano: ma come, noi siamo qua, siamo trentini e Trento è liberata, il concetto di liberato chiaramente, no? e Trento è liberata, e noi siamo qua che combattiamo ancora. Ma cosa ci facciamo qua? Come mai? Era meglio se noi non firmavamo per la cittadinanza e rimanevamo prigionieri lì fino alla fine della guerra, e poi l'Austria ci rimpatriava, insomma, con lo scambio dei prigionieri, no? Lei ha seguito tutto questo fino alla fine. Lei è morta nel 28, quindi dicevo, fino alla fine ha portato avanti questo suo impegno, che era un impegno diretto di responsabilità nei confronti delle famiglie. Erano le mamme e le mogli che scrivevano alla Marchesa di intervenire. È vero che la guerra è finita da 5 anni, scrivevano, però mio figlio mi ha scritto dopo che è finita la guerra, e se mi ha scritto dopo che è finita la guerra vuol dire che è ancora vivo e che è là e che non può tornare. Nel 25-26 mi sembra Tiglio Arlan che è stato mandato in Russia a cercare questi prigionieri. Cose vive dopo la fine della guerra, ecco, questa è stata la sua azione, per cui è stata resa, diciamo così, era un po', sapevamo che aveva fatto questo. Io quello che non sapevo era tutto il resto che aveva fatto, per esempio il fatto di riuscire a rifornire ospedali come quelli delle città che lei chiamava le italianissime, perché erano quelle del fronte, cioè Borgo Valsugana, Roveretto e Riva del Garda. Lei le chiamava le italianissime perché erano quelle segnate dal fronte, dal combattimento, no? Gli ospedali tutti e tre sono rimasti in piedi, ma erano svuotati completamente. Lei è riuscita, sempre utilizzando le sue reti, no, a far arrivare denaro e a far arrivare materiale sanitario perché queste riprendessero a funzionare, questi ospedali, no? E così per la campana dei caduti di Don Rossaro, se vogliamo. E poi, leggendo i pochi appunti che avevo, perché devo fare una premessa, di scritto su di lei non c'era niente, c'erano due fascicoletti apparsi, come diceva la signora, sui quattro vicariati, una rivista locale della Bassa Vallagarina, no? Uno, quello sui quattro vicariati era uno scritto di Cose che prendeva proprio dal figlio della Marchesa. La Marchesa, ricordate, aveva un figlio, no? E lui aveva scritto un piccolo pamphlet sulla mamma, no? Che ricordava le azioni, quello che poi ti ho mandato in parte. E io controllavo quello che ha scritto il figlio, dicevo sì, questo l'ha fatto, vabbè, poi verificavo nei miei appunti, nell'archivio, così. Poi sono arrivato al fatto di Bolzano, che devo dire è stata la cosa che più mi ha appassionato, perché il resto qualcosa sapevo, ma di questo proprio non sapevo niente, no? E lei deve aver parlato al figlio di qualcosa che è successo a Bolzano, e il figlio l'ha trascritto in una forma un po' romanzata, perché molto emotiva, ma sembrava un po' una cosa strana. C'era scritto in poche righe su questo testo del figlio, c'era scritto che la mamma era andata a Bolzano durante una grande festa popolare, c'erano i bambini che suonavano, e questo corrispondeva, insomma, c'erano le bande, così, e perché si voleva che un senatore, cioè che un signore del Tirolo, insomma, non era definito da che parte veniva, diventasse senatore della Repubblica, del Regno d'Italia, no? E lì qualcuno di fascisti hanno tirato delle bombe, e è successo un patatrac, e questo era quello che era. Io dico, una cosa così è troppo importante per sorvolare. Non ho cercato appunti, ho cercato nelle lettere, io non ho trovato niente, se non poi quel documento che ho messo qua dentro, no? In fondo, ma anche lì non riuscivo a capire da quel documento lì bene com'era andata la storia. Ho interpellato gli storici che conosco io, cioè quelli di Roveretto e di Trento. E così mi hanno detto, ma questa cosa del genere non è successa, non sappiamo niente assolutamente. Poi uno che ringrazierò sempre, mi ha detto, guarda, io non so niente di questo, però ti dico chi rivolgerti. Se è successo qualcosa, Christoph von Hartungen lo sa, però se è successo, ma mi era piaciuto il modo con cui l'ha detto questo amico, no? Se è successo qualcosa, lui lo sa, se non è successo, lascia stare, non parlarne, no? Infatti ero pronta a non parlarne, perché poi è passato del tempo e avevo anche avvisato i marchesi, che seguivano con trepidazione la nascita di questo libro, no? Marchesi nipoti, intendo, di Gemma, no? E avevo detto, insomma, non guardi questa cosa qua, non riesco a trovare il filo, adesso aspetto la risposta di un professore di Bolzano, vediamo cosa mi dice. E da lì è partito il nostro rapporto epistolare, che è stato veramente una cosa importantissima, perché mi ha guidato in un mondo, non è solo perché ho potuto scrivere di quell'aspetto lì, è che io non sapevo niente di questo e ogni tanto pensavo a quegli nostri storici, nostri, che te ne ho anche scritto di questo, no? Che mi stupiva veramente che non sapessero che il 24 aprile del 1921 è successo quello che è successo a Trento, a Bolzano, no? Io per motivi di lavoro collaboro con una ditta di Merano e mi sono presa, quando ho saputo questo fatto, mi sono presa la briga, dico, telefonato, ho parlato di tutte altre cose, del lavoro, dei rapporti. Tu sai cosa è successo il 24? Ma scherzi, dice, ma tutti noi sappiamo, come poi dicevi anche tu, no? Cosa è successo. Bene, passiamo a Salorno e nessuno sa, cosa, neanche gli storici. Mi sembrava una cosa incredibile questa, per cui ci ho messo una grande passione nel seguire questo discorso di quello che è successo e poi ho capito anche il testo che è riportato qui in fondo della Marchesa, dove la Marchesa era presente quel giorno, il 24 aprile, era presente ed era vicino a Credaro quando è successo quello che è successo. Solo che Credaro, preoccupato, lo dice lei nella lettera, preoccupato del fatto che c'erano i fascisti, li avevano visti, avevano tirato giù delle aquile dalle pareti, dei palazzi della città, così, no? Preoccupato di questo, voleva partecipare dalla finestra di un palazzo e guardare, e ha chiesto al capo dei carabinieri quando era la manifestazione, quando era il momento e gli è stata data un'ora sbagliata. In pratica, quando Credaro e la Marchese sono affacciati al balcone, era già tutto finito. Era, questo è anche interessante, l'appunto che dice lei, ecco come trattano Credaro, le nostre forze dell'ordine, dice, terribile. Poi ci si domanda perché è passata nessuno l'ha ricordata poi, no? Ecco come trattavano anche Credaro, no? E in pratica lei poi ha partecipato al funerale, ha seguito, era presente al funerale il 27 di aprile, e ha seguito il feretro convinta che nessuno le avrebbe fatto, tutte le dicevano non andare, non partecipare perché se la prenderanno anche con te i tedeschi, no? Così dicevano, no? E lei ha detto io vado. E poi riporta, nessuno mi ha mai non mi ha detto niente, nessuno, e di questo era orgogliosa di aver partecipato, dove parla della bambina di 4 settimane, del maestro di Marlengo. Io avevo la pelle d'oca nel leggere queste cose perché erano cose che affrontavo per la prima volta, veramente, come un romanzo molto bello, ma un romanzo vero, insomma, veramente vissuto. Per cui questo, ecco, cosa avevo detto che non vi raccontavo tutto, vero? Magari la lettera sarebbe bello leggerla, sì, vero? Sì. Se c'è qualcuno, ecco, bravo, io posso leggere, ma non sono una brava lettrice. L'autrice è sempre meglio, l'autrice che l'autrice conosce il testo, perché l'ha scritto, no? Sì, ma l'ho scritta ancora, vabbè. È anche un po' lunghetta. Sì, però la leggo male. Prima di tutto, allora tenete presente che non sono una brava lettrice io, però e lei scrive anche con passione, per cui certe cose, se sentite che io sbaglio, voi pensate che è lei che sbaglia, non io, no, va bene. Ecco, immaginatevi questo. Bolzano, 27 aprile 1921. Bolzano è piombata nel lutto per mano assassina, mentre festante riapriva la sua vita al commercio e cercava obliare il passato doloroso, fidente di trovare nella pace e nel lavoro tregua alle lotte politiche. Scusate se io mi interrompo per un tanto fare una nota, questa non è la sua scrittura. Sentite come parte aulica, nel modo così, no? Lei scriveva diretto, proprio pane al pane, e pian pianino torna ad essere quella che poi è veramente, no? Non è senz'altro lei qui probabilmente si è concentrata, ci ha messo di più per questa strofa qua, per questa frase qua, che per tutto il resto. Questi ultimi giorni vissuti dal popolo possono dividersi nettamente in due periodi, uno di speranza e l'altro di disinganno. Per inculcare il primo sentimento, il lavoro è stato paziente in tutti i pochi buoni italiani di qui. Ma ci siamo riusciti, tanto che la Landeszeitung era assai migliorata e il riavvicinamento era compito con l'inaugurazione dell'esposizione e nel cordiale ricevimento fatto a Sua Eccellenza Credaro la sera prima, ove il sindaco, futuri deputati eccetera erano lietamente riuniti nella sala del Palazzo Mercantile. La mattina delle inaugurazioni tutti ascoltarono soddisfatti le parole di Sua Eccellenza Credaro, che venne ricevuta anche dal saluto di un gruppo di signorine in costume, le quali seguirono e fecero corteo d'onore all'automobile che conduceva Credaro e la sua signora, il commissario civile Cavalier Postinger, e me da un padiglione all'altro. Ovunque Sua Eccellenza era accolto con i modi più cordiali e deferenti, tanto che ebbe a dire che molte volte Sua Maestà non ebbe tali accoglienze ad inaugurazioni ove egli ebbe occasione di accompagnarla ed intravedeva la possibilità di una non lontana visita del re. In tutti vi era un senso di letizia e di fiducia nella situazione che purtroppo durò assai poco. Ed ora le cause e le rappresaglie del doloroso episodio del 24 aprile. Sospettai subito che l'elemento carabinieri e moglie, questo qua è moglie, è terribile perché la tornerà, l'elemento carabinieri e moglie, il generale e la generalessa Gualtieri, sarebbero stati offesi dal non invito all'inaugurazione. Nell'elemento militare non frequentavo che un poco il generale e il signora, che del resto non si completano, se non con il colonnello Marinetti di Stato Maggiore che forma la triade in vista e che perciò non fa buona impressione in nessuno. Questi tre indivisibili non frequentano alcuno all'infuori della moglie del colonnello dei Carabinieri Guerri, che viene talvolta al caffè al tavolo del generale, ove io ogni tanto vado per opportunità. Questi dettagli di personaggi poco importanti sono oggi di prima importanza. Conoscendo a fondo qui la situazione, mi fu facile comprendere la possibile gravità delle conseguenze per il mancato invito da parte dei tedeschi ai militari. Assolutamente i tedeschi a questo non vollero arrivare, dicendo che la festa era civile e commerciale e che, del resto, anche sotto l'Austria non invitavano i militari. Per la prima volta il Bürgermeister Peratoner era stato al commissariato di Bolzano a parlare con Credaro in italiano. Dunque già tutti notavano un riavvicinamento che del resto data dalle conferenze avvenute a Krobenstein da Sua Eccellenza Credaro e von Grabmaier. Lei era stata artefice di queste conferenze, questo incontro. Non si poteva pretendere di più e non era necessario l'intervento militare. Del resto io non ero al corrente se più o meno avessero fatto l'invito al generale Gualtieri. Perciò un triste presentimento mi pervase nelle ore meridiane del 19 aprile, giorno dell'inaugurazione, e dissi a Sua Eccellenza Credaro e al commissario di qui, due punti virgolette, dobbiamo rimediare. Domenica, per il corteo, festa cittadina, dobbiamo invitare i militari e prima darò io un déjeuner alle autorità. Sua Eccellenza Credaro rispose che andava bene ottenere l'invito per le autorità militari, ma non poteva fare maggiori progetti. I fascisti di qui gli avevano intanto consegnato una lettera per il mancato invito alle autorità militari, minacciando l'arrivo di 5.000 fascisti per domenica. Rimasi impressionata perché sapevo che i fascisti di qui erano molto deferenti e ben visti dal generale e in buoni rapporti con i carabinieri, malgrado i capi fossero dei soggetti loschi. Il giorno appresso mi accostai al generale e moglie, che facevano colazione nel mio restaurant, e parlai dell'esposizione. Disse che era stata una festa commerciale, ma che domenica, festa cittadina, avrebbero esteso gli inviti. Erano irritati, verdi. Essa soprattutto, e mi disse: siamo troppo buoni noi, creda, ci vuole il bastone. A ciò risposi: non si è mai usato in Italia, bisogna calmarsi, altrimenti entrano i fascisti. Lasci fare, fanno bene, dice la generalessa. Ah no, replicai, prima di tutto il paese, e mi alzai. Poi cercai di persuaderla che bisogna andare adagio, che il sindaco Peratoner è una vecchia quercia, non la si può cambiare, che bisogna lavorare il suo entourage per le prossime elezioni ed avere un sindaco più malleabile, ma che del resto si era già fatta gran strada. Ci lasciammo. vidi il commissario cavaliere Postinger, Postinger o Postinger? Postinger. Non so. Postinger, che mi disse che i suoi passi presso il generale per ottenere la sua adesione ad accettare l'invito per domenica al corteo erano falliti. Anzi, gli disse il generale, neanche Credaro non doveva andare all'inaugurazione, visto che il mancato invito a noi. E che gli ufficiali, i carabinieri, il colonnello Marinetti, tutti erano montati e non si poteva dunque sperare che avrebbero influito a far desistere i fascisti. Raccontai il mio colloquio al colonnello generale e moglie, il mio colloquio col generale e moglie, e si rimase sotto l'impressione che questi signori accettavano i fascisti per loro paladini. Telefonai il colloquio con i gualtieri e le mie impressioni a Credaro, che venne la mattina dopo e dette ordini severi ai carabinieri, al generale e ai funzionari per il corteo di domenica. Il sindaco, i futuri deputati davano da parte loro assicurazione che i tedeschi non avrebbero provocato e i fascisti di qui dettero la loro parola d'ordine, d'onore, che non avrebbero disturbato né loro né quegli 800 circa che dovevano arrivare. Sembrava quindi che fosse venuto un accordo, almeno al commissariato. Sua Eccellenza Credaro partì tranquillo e qui tutti erano sicuri che la festa ormai sarebbe stata lieta o almeno protetta. La domenica mattina, malgrado il sole bellissimo, la città animatissima di contadini e di vari costumi, fiori, eccetera. Pure nel quell'andare e venire di soldati con l'elmetto dava un senso di contrasto stridente e un'impressione che si scherzava col fuoco. Andai a messa e nell'uscire di chiesa, tra il popolo religioso, inerme e tranquillo, dinanzi a me apparve un fascista col berretto della Disperatissima di Verona e disse, alzando un grosso randello, «Chi ha coraggio salga lassù!» Ed in un baleno salì le scale di una casa, montò sulla finestra e con lo stesso randello abbatteva un'insegna di ferro rappresentante l'aquila bicipite. Due altri fascisti si dissero fra loro, adesso andiamo a farne delle altre. Furono istanti di silenzio nella folla spettatrice. Volsi gli occhi per cercare un carabiniere. Niente. Lei lo sottolinea questo niente, no? L'assenza delle forze dell'ordine, no? Niente. E percorsi tutta la Silbergasse, inutilmente senza trovarne alcuno. Rimasi impressionata. Erano le 11:15. Mi recai poscia al Bristol a colazione da Sua Eccellenza Credaro e signora, ove trovai invitati il commissario di qui, il professor Lambertenghi, il colonnello di carabinieri di Trento Terzani, che dirigeva il servizio di pubblica sicurezza, con le due figliole. Raccontai a tavola quanto avevo visto dei fascisti e l'assenza dei carabinieri. Involontariamente ritornavo sull'argomento, quando in quel momento passava davanti al Bristol quello stesso fascista con l'aquila in mano, una brutta ghigna da delinquente, e dissi, come tutte erano facce da delinquenti, quelli almeno dalla berretta nera. Credaro cominciò a turbarsi, invitò due volte il colonnello Terzani ad informarsi dell'ora precisa del corteo. Ci avviamo ad assistere dalle finestre del generale sulla piazza alla sfilata del corteo, se non che questo era già passato, anche questo è sottolineato. Così informavano Sua Eccellenza esattamente dell'ora, ecco quello che dicevo prima. Il generale ci disse che tutto era andato bene e Credaro stava per telegrafare questa buona notizia a Giolitti, allorché un colonnello dei carabinieri, dopo l'altro, aggiungeva notizia a notizia, finché si ebbe completa visione della tragedia che si svolgeva in città. Il generale e la moglie erano profondamente turbati. Sua Eccellenza Credaro stesso è stato ingannato, sottolineato, è stato ingannato. Questa è la mia impressione, oltre che dai fascisti, anche dai carabinieri, lasciando la popolazione indifesa. La vittima, Francesco Innerhofer, lascia una bimba di 4 settimane e la vedova. Vi sono una cinquantina di feriti e alcuni gravemente. Non un solo italiano o carabiniere ferito. Eloquente. La popolazione reclama soddisfazioni. Due punti. Primo. Arresto dei fascisti assassini che il colonnello dei carabinieri Terzani non ha creduto opportuno di arrestare qui, per non turbare maggiormente l'ordine, ma che ieri diceva a me sarà difficile trovarli a Verona. Secondo, cambiamento dei carabinieri e del generale Gualtieri. Imponente ieri il funerale. Vi ho preso parte, alcuni tedeschi mi dissuadevano d'assistervi perché temevano insulti, invece fu un solenne attestato di civiltà ed infrangibile solidarietà. Mai i tirolesi dimenticheranno l'incursione fascista del 24 aprile e già nei loro cuori e nei loro canti abbinano il nome dell'Innerhofer a quello di Andrea Hofer. È bello, vero? Scusate, un po' bisogna leggerlo, forse più che sentirlo leggere, perché ci sono dei passaggi che, dove lei scrive in certo modo, no? Ma credo che ci sia dentro una modernità incredibile. O no, non so, vero su questo. E anche fa capire come certe posizioni prese poi insomma dai politici di lingua tedesca, eccetera, erano al momento terreno comune, perché come la pensava lei, penso che la pensava anche Credaro o altri. Ecco. Questa era Gemma Guerrieri Gonzaga. Ma adesso vedo. Comunque se volete chiedere qualcosa, poi è stato molto interessante il nostro incontro in questo modo qua, ma credo, ho avuto la sensazione a un certo punto che allora chiamava il professore von Hartungen, oddio mio, che fosse in pena dalla mia pressione su questo, era comprensibile. Sì, comunque aiuta sempre a rimettere anche in sesto i pensieri e a analizzare la situazione, gli avvenimenti, e poi ne avanza la pena perché è una testimonianza che fino ad oggi nessuno, o fino a un anno, diciamo fino a sei mesi fa quando è uscito il libro, nessuno conosceva, nessuno sapeva, no? Di queste lettere o di questa iniziativa, di questa opera di mediazione che la Marchesa Gonzaga ha svolto tra lo Stato italiano, tra l'apparato e i sudtirolesi, cercando di avvicinarli tutte e due le parti, che chiaramente dopo una guerra di 3 anni, questa volta con grandi lutti e dopo un'annessione vissuta anche come un'amputazione, era chiaramente molto difficile da percorrere una strada tutta in salita, che lei ha cercato in vari modi di alleviare, di aiutare, ma che chiaramente gli avvenimenti poi nazionali, diciamo la presa del potere dei fascisti, poi chiaramente ha del tutto stroncato, certo. Prima di nascere. Io, è vero, ho avuto modo di conoscere questo anche personaggio di cui parlava prima Christoph, Karl von Grabmaier. C'è una lettera che io non ve la leggo, questa non è molto lunga, ma non la leggo, che lui scrive alla Marchesa, no? E per non correre, lei parlava tedesco, però per non correre dubbi lui la manda tradotta in triplice copia, perché non ci siano dubbi insomma di interpretazione su questo, no? E aveva una modernità incredibile. A un certo punto lui dice, discute con la Marchesa sul fatto dove deve essere, dove deve finire la provincia, diciamo così, di lingua tedesca e la provincia, iniziare la provincia di lingua italiana, no? E c'era una discussione sul fatto che Egna dovesse appartenere all'Italia, gli italiani volevano Egna, volevano la Val Badia e la Val Gardena, e ecco, lui discuteva su questo. E a un certo punto lui dice alla Marchesa, se ci sarà futuro pacifico tra le nostre popolazioni, ci sarà solo se riusciamo a far chiarezza su questo, che la popolazione di lingua tedesca arriva fin lì e comprende questa e quell'altra vallata per questi motivi. Dobbiamo rispettarci, creare 2 province non so, non credo che usi il termine autonome, però a me viene da dirlo, ma nel senso quantomeno storico, non moderno, però con una modernità incredibile, perché siamo nel 1920 quando scrive questo, no? E lei prende queste lettere e le manda uno da una parte, l'altra dall'altra, l'altra dall'altra, e rimane in trepida attesa, perché ha il dubbio che il governo di Roma non accetti questa suddivisione precisa legata alla lingua, cioè il territorio come territorio dove si parla una certa lingua. No? Roma non risponderà, promette una risposta immediata, perché lei muove le sue pedine politiche, ma come lei pensa, come lei teme, in effetti, non riceverà risposta assolutamente su questo discorso. È una cosa anche interessante che non ho detto, e con questo poi io chiudo, la Marchesa era innamorata di questo territorio, siccome alla fine della guerra San Leonardo non era stata battuta, non c'erano state bombe, insomma, particolari, non c'erano state grandi distruzioni, però lì era sede del 29° Corpo d'Armata, avevano tagliate tutte le vigne per un aeroporto, per il campo medico, per cui era un po' stravolta. Poi in linea sarebbe passata, già lo sapeva lei, la proprietà sarebbe passata in linea maschile, per cui lei, che era femmina, era la sesta figlia, non avrebbe ricevuto niente della proprietà di San Leonardo, per cui un po' si allontana e sta cercando casa. Si guarda attorno e lei vuole una casa in Alto Adige, per cui ci sono anche tante ville che vengono vendute a prezzo buono, perché tanti del posto scelgono di andare in Austria, no? Si guarda attorno e sogna tra Merano, Bressanone, questi sono i suoi poli, Bolzano, ma in modo particolare Bressanone, Merano, il Renon, queste sono... Trova la casa, l'appartamento, la villa, no? Diciamo la villa, no? Mi sono immedesimata troppo, l'appartamento, no? Trova una villa, dà addirittura anche un acconto perché vuole, ha deciso di trasferirsi qua, il figlio ormai è grande, fa altre strade, segue, è a Roma, lavora ai ministeri, eccetera, no? E proprio lì, dopo aver pagato questo acconto, succede quello che è successo il 24 aprile del 21. Chiude tutto, rinuncia all'acconto chiaramente e chiude anche con l'Alto Adige. Lei se ne va dopo il 27 aprile, no? Se ne va, e non in nessuna lettera che io ho letto poi, che la coinvolge in qualche misura, parla più dell'Alto Adige, come se fosse una rinuncia. Quello che si poteva fare a un certo punto è stato bloccato e non possiamo più andare avanti. Anche questo secondo me è molto visto lontano, insomma. Vabbè. Com'è morta? È morta giovane, aveva 55 anni e si è sentita male, era a San Leonardo, si è sentita male, perché poi torna a San Leonardo, allora, visto che sfuma l'idea di acquistare una villa nell'Alto Adige, acquista tutte le quote dei fratelli, indebitandosi da matti, no? Le acquista tutte e vive lì, ferma a San Leonardo. Una mattina del gennaio del 28 si sente male, viene portata a Rovereto, ha un'emorragia cerebrale e muore il 14 di marzo di quell'anno lì. Velocissimo. E verrà sepolta a San Leonardo, è sepolta a San Leonardo, ma quello che è interessante è che allora era conosciuta ancora, no? Nella zona, quantomeno per quello che aveva fatto per gli ospedali, così. Rovereto fa un funerale, insomma, di quelli storici veramente molto importanti. Il feretro viene portato attraverso tutta la città, a spalle ci sono dietro tutte le rappresentanze politiche, amministrative venute da Roma, e viene portata alla stazione del treno, dei treni di Rovereto, da lì caricata su un camion. Qualcuno dice, un giornale parla anche di un vagone del treno riservato apposta a lei, ma credo che sia un camion invece. Portata, sepolta, e come viene messa sottoterra, sparisce. Nessuno più sa niente. Questi documenti, di cui dicevamo prima, questo archivio potentissimo, il marchese Carlo e i fratelli Maria Gemma e Tullo, tuttora viventi, li hanno trovati in una vecchia cassa, mettendo ordine, perché anche i marchesi mettono ordine, ho scoperto, no? Ecco, e mettendo ordine in soffitta nella villa hanno trovato una cassa coperta di porco anche, e stavano per buttare via pensando fossero giornali, vecchie riviste, così, e hanno scoperto questo tesoro veramente, no? Che poi il museo del Risorgimento, allora si chiamava così, di Trento, ha riordinato. Ecco, io adesso arrivo e chiudo veramente, mi introduco lì, io in quel periodo sono assessore alla cultura del comune di Avio, nel periodo in cui vengono ritrovati questi documenti, o forse un po' dopo, e vengo a sapere che c'è emerge questa figura veramente eccezionale di donne, e gli dico, ecco l'argomento su cui io voglio scrivere il mio primo libro. Ci ho messo 20 anni ad arrivarci. No? Ecco. Brava. Carissimo, che bello vederti. Sono arrivata in ritardo. E sai perché? Sai perché sono arrivata in ritardo? Vieni che te lo dico a te. Che bello, lui abbiamo messo mezz'ora di discussione. Ero forte di questo, io sto lucendo, no, all'angolo, e a buttargli ha vinto la Sant'Anna, no? È scritto che ha vinto la però mi viene veramente deciso, io veramente non pensavo di fare un'offesa mortale. Ma io peso qualcuno? Un po' sì, tu mi hai capita. Si compra, si rompa. Sì, certo mi fermo, sono venuta tardi, ma almeno sto. Ecco, bello, sono proprio contenta, non sono riuscita mai a venire alle tue altre cose. Sei bellissima, totalissima. Così come tu. Ihre Physik, ja, das ist total gut. Der Geischaum, der Kinderbrunnen, der ist ja oben. Ja, das ist ja tolle Fälle. Grazie, do. La mattina sta bene. Tu non hai nemmeno molla. Sì, sai, noi ci siamo conosciute. Per partire, fate il suo game. Siamo abbiamo un esperienza sulla mia parte, che è vicino alla Tana dell'Italia. Siamo nella parte del museo di Olle, in Valsella. Se la viene di iniziare qua, noi siamo qua, verso Trento. È un bel museo, è carino. Qui arrivavo un anno fa, una chiacchierata. 8 marzo della Cavallini. C'era anche la mattina Steiner. E io ho presentato questo qua. Ma non avevo ancora scritto niente, ho presentato la piatta, la piatta sulla. Tanto è vero che poi, per esempio,